Zibaldone. Zibaldone, Zibaldone, Zibaldone, Zibald, Zibald, Zibald, Zibaldone. Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Ogni venerdì dalle 18 alle 20 su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona. Zibaldone. Zibaldone. E buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, un piacere riessere qui con voi dalle frequenze di Radio Contrabanda per una nuova puntata di Zibaldone, che come avete sentito e come già sapete immagino è un programma in italiano non solo per italiani, in onda tutti i venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 sulle frequenze di questa storica radio libera barcellonese, Contrabanda FM sul litorale catalano sui 91.4, in streaming all over the world dalla web contrabanda.org, e poi avete una sfilza di podcast che trovate scaricabili dal nostro blog zibaldone.contrabanda.org, e tra l'altro trovate anche il podcast della scorsa settimana 5 maggio in cui abbiamo cominciato questo monografico speciale, che dir si voglia, intitolato La famosa invasione dei dementi in Italia. Ecco, oggi lo riprendiamo da dove l'abbiamo lasciato venerdì scorso, riprendiamo questo viaggio, siamo negli anni 70 e ci stiamo ormai avvicinando, stiamo entrando negli anni 80. Ecco, di canzoni, musica demenziale ce ne sono state tante, e oggi cominciamo con una band che sicuramente ha lasciato un segno. Loro sono gli Squallor. L'ho conosciuta in un club, eri bellissima, ma avevi un solo difetto: non c'eri. Nel 1904-2003 a San Gregorio, una località che era nel giardino di casa nostra, ti ho rivista. Non avevi un capello e nemmeno un po' di orgoglio. L'incontro ebbe luogo in una giornata di sole, con il cielo coperto. Spettatori circa 3, molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti, ma un banco di nebbia che vagava. Ho comprato anche i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato: chi sei? Da dove vieni? Odite, sei una donna o un semaforo? Sei una donna o sei Acapulco? sei una donna o sei una pulce rossa con la scarlattina, con il catarro bronchiale, anche con un po' di febbre a 46. Sei una donna malvagia, io non ti amo, ti odio, ti odio. Vabbè, oggi è il 12 maggio, siamo nel cuore di questo mese di maggio, molto primaverile, almeno qui sulle coste del Mediterraneo catalano, e siamo anche nel bel mezzo, non del cammin di nostra vita, se volete anche di quello, ma soprattutto, Banzo, di questo monografico, la famosa invasione di dementi in Italia. Oggi, seconda puntata, abbiamo cominciato la settimana scorsa e cominciamo forte con una band importante per questo genere, come appunto gli Squallor. Bentornato ergonomico più che mai, il nostro Enrico Banzo. Ciao Banzo. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Siamo anche nel 1904-2003, è importante. Me l'ero scordato, sì, hai ragione. È un anno molto importante, sì, seconda puntata di questa serie di monografici su più o meno la storia del rock demenziale italiano, dico più o meno perché abbiamo coperto anche canzoni ironiche in senso lato, come potete vedere recuperando il podcast della settimana scorsa, però appunto l'idea originale è nata dalla curiosità di scoprire un po' dettagli, curiosità della storia del rock demenziale, ed è per quello che appunto abbiamo parlato di dementi nel titolo. Ovviamente non c'è nessuna intenzione di ironizzare sulla demenza. Sì. Nella scorsa puntata avevamo visto una carrellata di artisti e avevamo dedicato al massimo due pezzi per musicista, anche se qualche nome tornava a causa di alias, collaborazioni, eccetera. E invece questa volta diciamo che in questa puntata copriremo quelli che possiamo considerare, scusami l'espressione un po' banale, i tre pesi massimi del genere che potremmo considerare, vabbè adesso non li anticipo, uno di questi sicuramente sono gli Squallor. Gruppo che, come sapete, a Zibaldone amiamo moltissimo, e questa Ti ho conosciuto in un club è un eccellente biglietto da visita perché presenta una delle loro caratteristiche principali, le narrazioni di Alfredo Cerruti. Cioè non c'è cantato, ci sono queste storie che si muovono a volte anche improvvisate sulle basi e sono diventate un autentico marchio di fabbrica. Questo pezzo è tratto da Troia, primo disco del 1973, uscito anche come singolo. Eh sì, e noi rimaniamo sugli Squallor perché gli vogliamo dedicare almeno un giusto riconoscimento all'interno di questo monografico sulla musica demenziale in Italia. Andiamo avanti di qualche anno e nel 1977 troviamo un'altra loro canzone intitolata L'alluvione. Eccola qui. Signori, buonasera, vi parlo da Fontana in provincia di Scroscio. Sta per succedere quello che succede quasi tutti gli anni, l'alluvione. Quest'anno il sindaco però ha organizzato le cose in grande stile, hanno già intasato le fogne e i tombini, la popolazione si prepara in grande stile direi, hanno già comprato alcuni casermoni per ricoverarsi dentro ma non sono in vendita. Per cui è rimasto tutto allo stato bravo. Eccolo qui il sindaco, sta per tagliare il nastro. Eccoli lì i nuvoloni, cominciano a essere nerissimi. Primi scrosci d'acqua, c'è un bambino formidabile, sembra il fratello più piccolo di Zo. Ne ha già parato 6 di gocce. Il sindaco sta per tagliare il nastro. Ecco la valanga d'acqua che viene giù. Sono tutti felici, la valanga è arrivata, evviva la valanga! C'è anche uno slogan qui in paese, se non c'è la valanga compratevi la stanga. Ecco qui, i primi alluvionati sono già arrivati a bordo di jeep e gipponi. c'è anche Gruviera, un rappresentante della Svizzera interna per vedere come si fanno le alluvioni che sono da esportazione. Ne vorrebbero comprare al MEC circa 15, ma il costo di produzione anche in questo caso è molto alto. Ed eccoci qua, siamo in piena alluvione, lampi, tuoni, tortorelle, colombi alluvionati, cronici, ci sono anche i bitumi di immondizia che vagano come dei randaggi in fuga, inseguiti da topi, scarrafoni, giostre galoppanti, alcuni idrofobi che stanno passando per le strade, tutti contornati da torte, tortoni fatte dagli assessori comunali, tutti ingaggiati per distribuire una goccia ad ogni cittadino, ma ormai più di una goccia è il fiume a casa vostra. Eccola qui, l'alluvione, l'alluvione superstar, l'alluvione d'esportazione. Ve la offre il governo, l'alluvione. Eccola qui, tutta sporca, nera, ora alluvione nera, macchiata di giallo colorato, l'arcobaleno dell'alluvione. Arrivederci, arrivederci. Eh beh, bisogna dire la verità che è davvero geniale questo brano, che tra l'altro, Banzo, tornando un po' anche a cose di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ci mostra anche, ecco, come dire, l'altra faccia della medaglia nel senso geografico della penisola italiana, perché la settimana scorsa i brani selezionati erano prevalentemente dal nord Italia, soprattutto dal bacino milanese, il cabaret, insomma, Iannacci, Cocchi Renato, eccetera eccetera. Ecco, avevamo fatto qualche sortita al sud, penso a Roma e soprattutto le Puglie, ecco, qui invece insomma il sud trova la centralità che si merita anche in questo monografico. Beh sì, senz'altro, però gli Squallor sono sempre un caso anomalo, nel senso che vengono identificati spesso come un gruppo napoletano, ed è inevitabile perché hanno spesso inciso brani in lingua napoletana, adesso ne sentiremo uno, sono indimenticabili. Però in realtà i membri napoletani erano solo due, Cerruti e Savio, poi avevamo un toscano e non mi ricordo in questo momento Pace, credo fosse pugliese, però erano tutti stabiliti a Milano, quindi alla fine Milano è tentacolare e torna sì. Sempre. Ma anche per una ragione, per il discorso dell'industria discografica. Esatto, è un punto che è importante sottolineare, perché non è ozioso ricordarlo, Milano era centro dell'industria discografica e i quattro membri degli Squallor erano organici a questa industria, perché come musicisti, arrangiatori o discografici, come nel caso di Cerruti, lavoravano all'interno di questo business. Quindi diciamo che anche la loro critica alle manie della pop music veniva tutta dall'interno. Spesso magari si può dare la situazione che dovessero scrivere canzoni romantiche, poi a un certo punto magari scrivessero una satira feroce di una canzone romantica, probabilmente perché si erano rotti i coglioni del lavoro, ecco, diciamo, semplificando molto. In questo brano, tratto dal disco Vacca del 77, anno straordinariamente prolifico, perché nello stesso anno uscirà anche Pompa, più tardi, vediamo la, diciamo, un po' la corrente di critica sociale che non è onnipresente negli Squallor, però erano un gruppo che andava un po' in tutte le direzioni, ha coperto molti temi in modo non banale, quindi anche la critica sociale non mancava, c'era questa descrizione di questo paese colpito da una catastrofe così inevitabile da essere programmata. E a livello musicale, diciamo che si vede un'altra caratteristica degli Squallor, le marce. Perché questa, benché nominalmente non sia una marcia, ne hanno almeno tre: marcia del K2, marcia del Quocano, nella marcia longa del 74, che è un capolavoro, Però questa è musicalmente una marcia e secondo me si vede che a Totò Savio piaceva moltissimo comporle. E io la trovo, soprattutto il crescendo verso la metà del pezzo è autenticamente glorioso. Chiudo dicendo che appunto parlavamo di rock demenziale, gli Squallor ne sono sicuramente uno dei numi tutelari, però c'è un piccolo paradosso perché di rock ne hanno fatto veramente pochissimo in carriera. Sì. Noi continuiamo e entriamo negli anni Ottanta con questa cornutone, sono sempre loro, gli Squallor. Miss, si miuta fermindo ces, e moga rimanghi sulla, domana fangula. O mia cara miss, e forte ce pura is, cadante nu curnutone, e manca per un milione, in un chiava se chiù. Curnutone che basta via Modena vai, non chiagnere basta amore, a che la non ci pensa, un casino figlio e bucchino senza cuore, ciò fai male, e mare rara, il pulone te voglio bene come che, guardate stu povero uomo, una pera che capo fa, per una femmina che te leva libertà. Non va se in coppa una zizza per stu cazzo che non si arrizza senza te, allisciamo stu bebè. Yes, ma io chiavo stesso e mica si offesse. Oh yes, cagato cazzo, perché mi sei sempre appresa, e in coppa su filo bus, tu mo che ce sai a fa. Curnutone che per sta via mo te ne vai, non chiagnere per sta amore, a che la non ci pensa, tu casino figlio e bucchino senza cuore, ci fai male, e mare nare, pupulone te voglio bene come che. Guardate sto povero mamma, la pena che mi può fa, per una femmina che te leva libertà. Con un vaso in coppa una zizza, per sto cazzo che non s'arrizza senza te, allisciamo sto bebè. E femmine so puttane, la vita so tutto guai, sta canzone per avericia verità. Non va se in coppa una zizza, per sto cazzo che non si arrizza senza te, allisciami sto bebè. Oh yes, ma il diavolo stesso, e mica si offese. Oh yes, oh mia cara miss, yes. Cornutone e gli Squallor 1981, qui abbiamo sentito, lo accennavamo poc'anzi, anche un brano appunto in napoletano, e do il bentornato anche al nostro Fausto De Salvia che ci accompagna anche in questa puntata, in questo monografico sulla musica demenziale italiana qui a Zibaldone. Fausto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. E qui siamo in una fase già avanzata della carriera degli Squallor e abbiamo un bellissimo esempio, capolavoro, perché è un capolavoro intramontabile, del filone della canzone napoletana, che è forse quello per cui gli Squallor sono più ricordati. Cornutone, cantata da Toto Savio, che quindi, diciamo, nel gruppo si prendeva la responsabilità di cantare i brani appunto in napoletano, che sono fra quelli più ricordati, una canzone d'amore, diciamo, leggermente risentita, ecco, mi permetto di dirlo, che dice leggerissimamente, con, diciamo, adesso non andiamo a tradurre in italiano, però i termini sono quelli, diciamo, c'è questo riferimento al bebè che non andiamo a indagare cosa sia, però in napoletano. E niente, Toto Savio appunto ha cantato per anni i pezzi napoletani degli Squallor. Quando fra l'altro purtroppo perderà la voce un po' di anni più tardi, dopo un intervento chirurgico, si parlerà di poter far entrare nel gruppo un cantautore napoletano, Federico Salvatore, che all'epoca era prodotto da Bigazzi, e quindi si parlerà di poterlo far entrare. La cosa non si concretizzerà, perché poi gli Squallor concluderanno purtroppo la loro carriera discografica, però ne approfittiamo per ricordare Federico Salvatore, che aveva dedicato un bellissimo album tributo agli Squallor, uno dei rari album tributo usciti su di loro, penso appena 3 anni fa, e che purtroppo è venuto a mancare un mese fa, quindi ne approfittiamo per ricordarlo. Rimaniamo con un ultimo brano ancora degli Squallor, qualche anno dopo, 1985, questo, il titolo, insomma, dopo ve lo raccontiamo, ma è già ironico il titolo, USA o USA for Italy. Caro Michael Jackson, tu che mandi soldi in Africa, perché la speranza torni a vivere. Ricordati di noi che stiamo a Napoli, e un disco faccelo anche per noi. E poi mandaci danari, tanti danari, e siamo pari. E se tu vuoi mandali anche a Bari e a tutti i meridionali fuori Italy. Facci una canzone col compare Stevie Wonder, e poi mandare a Sanremo o al Festival Bar. Però però mandaci canali che vanno male gli affari fuori Italia. Caro Bob Dylan, tu che canti in casa Reagan, quando c'è Gromico oppure Gorbaciov, i soldi di 4 teste nucleari falli mandare qui fuori Italy. Appena puoi mandaci danari, perché senza danari so cazzi amare. Anche i tuoi personali e di Diana Ross. Concludendo Mike, dillo pure a Berlusconi, facci fare dei milioni come J.R. e arriva al mare, dollari contanti, perché l'Africa canta Italy. E poi mandaci danari, ma proprio tanti danari, e siamo pari. E se tu vuoi mandali anche a Bari e a tutti i meridionali fuori Italia. Danari, perché senza danari Avete insomma capito immediatamente l'ironia dal USA for Africa, una lettera praticamente scritta a Michael Jackson e questa canzone Fausto degli Squallor. Sì, siamo nell'85, siamo in epoca di Live Aid, di We Are the World, quindi ovviamente le grandissime campagne del pop e del rock americano e inglese a favore della, del sud del mondo. In questo caso si invita invece a sostenere il sud dell'Italia, quindi mandaci i danari e se puoi mandali anche a Bari. Sì. Tra l'altro questo è uno dei pochissimi Leone di Lernia avrebbe sottoscritto. Sì, esatto, sì, sicuramente avrebbe sottoscritto. Fra l'altro, credo che sia l'unico pezzo degli Squallor che ha avuto l'onore di un videoclip, che è ovviamente una parodia, con i personaggi che imitano Michael Jackson, Bob Dylan, che ricordiamo canta in casa Reagan quando c'è Gromyko, oppure Gorbachev. E quindi davvero un grande successo per questo brano, che è uno dei rarissimi brani degli Squallor che è andato sulle reti nazionali, ovviamente perché non contiene parolacce, nemmeno in napoletano. E ricordiamo una cosa, che in questo disco, in cui è contenuto USA for Italy, c'è anche il brano Pierpaolo in URSS, che ci permette di ricordare la saga di Pierpaolo, questo figlio viziato che gira il mondo sperperando i soldi che storce al padre e che è presente praticamente in quasi tutti gli album degli Squallor, a partire da Pompa in poi. Quindi è un altro personaggio sempre temperato da Cerruti, quindi... Sì. Sono diciamo i vari filoni del gruppo nel corso degli anni. Sì, e prima di chiudere con gli Schiantos, a cui abbiamo dedicato l'inizio di questa puntata, menzionerei anche una, o ricorderei una cosa, insomma, si parlava di Berlusconi, siamo nell'85, quasi 10 anni prima della sua discesa in campo e ingresso in politica, ma l'altra cosa è che insomma anticipavano i tempi gli Squallor, perché sulla copertina di un loro disco, è vero Fausto, Cambiamento, doveva esserci una vignetta rappresentante Bossi. Sì, questo nel 94, loro pensano a una vignetta, il cambiamento, il gioco di parole sul mento, il mento di Bossi avrebbe dovuto essere rappresentato in un modo non proprio, diciamo, raffinatissimo, però i legali della casa discografica in quell'epoca decisero di soprassedere, quindi consigliarono di andare oltre. Infatti è l'unica copertina di Squallor che non ha una vignetta, diciamo, esplicita o comunque equivoca. Poi una cosa, non dimentichiamo, prima di passare al gruppo successivo degli Squallor, anche la loro realtà cinematografica. Loro hanno avuto questi due film, anche se vi partecipano con la colonna sonora e parzialmente sono presenti, perché sono più che altro, se non sbaglio, di Ciro Ippolito, no? Questo fantasiosissimo produttore, regista napoletano che davvero si ascolta la cassetta, ascolta dei ragazzi passare per il centro di Napoli con la cassetta di Arrapao a tutto volume, e quindi viene l'idea, ma facciamo un film su Arrapao, e quindi volutamente lo fa con 4 lire, perché ovviamente il risultato si vede, è un film volutamente trash, ma dichiaratamente fin dal principio. Ecco, il secondo film invece è Uccelli d'Italia. Noi però adesso troviamo la seconda colonna portante, per così dire, della musica demenziale in Italia. Hanno cominciato insomma anche loro più o meno in quel periodo, siamo alla fine degli anni 70 e parliamo degli Schiantos. Questa è la mitica Eptadone. Ma che cazzo me ne frega? Genere ragazzi, genere! Ehi sbarbo, smolla la biga che slumiamo la tele. Sei fatto duro. Sei fatto come un copertone. Ci facciamo? Sbarbi, sono in paradura. Ok, ok. Nessun problema ragazzi. Nessun problema. Sbarbi, sono in paradura. Schiodiamoci. C'hai della merda? Ma che viaggio ti fai? C'hai una banana gigantesca. Oh, c'hai della merda no? Ma che viaggio ti fai? Intrippato! Brutta storia, ragazzi, brutta storia. C'ho delle storie, ragazzi, c'ho delle storie tese. C'hai delle sbarbe a mano? No, c'ho delle storie. Fatti questo slego. 1, 2, 6, 9! che geni davvero gli Schiantos. Qui invece arriviamo nella Bologna di Freak and Tony, Banzo, eh? Sì, non potrebbe essere più Bologna di così, in effetti. 1978, tratto da Monotono, uscito su Cramps Records, capolavoro assoluto e anche manifesto ideologico di quello che comincia a configurarsi come rock demenziale, perché la definizione viene dagli Schiantos, viene da Freak and Tony. Ed è interessante notare come in questo genere così alla fine ampio, che si può interpretare in molti modi, anche reazionario onestamente, cioè venga a volte contraddetta l'idea originale di chi ha creato la definizione, che era spiccatamente anti-intellettuale e collegata al punk delle origini, cioè c'era un rifiuto della tecnica strumentale, del saper suonare, c'era questa ricerca dell'istintività, diciamo, e come contrasto viene da pensare a Elio e le storie tese, che ci sono anche ispirati all'intro di questo pezzo per il nome, che invece svilupparono un approccio al genere ultra tecnico. Quindi è interessante vedere come, ecco, di questo mondo, di questo approccio alla musica si possano dare interpretazioni così diverse. Eh sì, noi continuiamo con gli Schiantos perché anche loro hanno, insomma, c'è bisogno di un giusto riconoscimento, e sempre nel 1978 usciva questa Io sono un autonomo. Ci trovi un po' di fiori in questa storia, sono i tuoi! altro bel pezzo degli Schiantos, forse Fausto non uno dei più conosciuti. Eh sì, perché è forse un po' troppo legato al suo tempo, mentre il lato A di questo 45 giri, Carabiniere Blues, gli Schiantos l'hanno riproposto un'infinità di volte, e questo invece, sai, parlando di autonomia, naturalmente nella Bologna del 77, 78, 79, naturalmente era un po' più centrato sul periodo, va anche detto, Frick ricordava di questo 45 giri che riuscirono a farsi nemici tutti, perché naturalmente avendo un brano sui Carabinieri sul lato A e sugli Autonomi sul lato B, riuscirono a scontentare, a farsi nemici in ogni dove. Infatti ricordiamo che i loro concerti erano sempre spesso allietati da lanci di verdura e quindi dalla serie riuscirono, insomma, molto punk, ben a fatica, esatto, ad arrivare vivi negli anni 80, ecco. Eh sì, e nel 79 usciva anche quest'altro brano degli Schiantos che vi proponiamo, Caccole. A proposito di, insomma, lanci di verdura e, insomma, di attitudine punk degli Schiantos, è bene anche ricordare che nel 79 invece di suonare sul palco del Bologna Rock Festival si misero a cucinare la pasta. Banzo, insomma, però tra pasta, verdura ci sono anche molte caccole, da quanto sembra, eh? Beh, è comunque un gesto libertario, e se vuoi, però va detto che si lanciavano le verdure, perché le caccole è più difficile lanciarle perché restano attaccate alle dita, come tu ben sai. È molto importante specificare comunque, Steven, tu hai detto questo brano si chiama Caccole, è evidente, però è Caccole scritto tutto con la K, perché sì, erano quegli anni e infatti si faceva un grande uso della K, anche con Siga si scriveva con la K. Sì. O America. Sì, esatto, e anche il titolo del disco da cui è tratto questo pezzo, Chinotto, è scritto con la K invece che col CH, pubblicato sempre da Cramps nel 79, rappresenta un po' il canto del cigno della formazione classica, perché nel 1980 uscirà Pesissimo e per allora già non ci saranno più Frick Antoni e Dandy Bestia, anche se poi ovviamente torneranno, però diciamo che è la chiusura della prima fase della carriera degli Schiantos. Eh sì, noi vi proponiamo un ultimo brano degli Schiantos di qualche anno dopo, 1992, uscì in quell'anno Italiano, Terrone che amo. Con la vendetta, la cenetta, la pasquetta, l'italietta, la mamma, la pizza, l'insalata, la canottiera bucata. Elisabetta, la macchinetta, il cappuccino, il bicchierino, la sorella, la fidanzata, la maglietta sudata. Italiano, terrone che amo, con la passione forte che scappa da ogni parte. Italiano, terrone che amo. Ti amo, terrone. Questo è l'ultimo brano che vi proponiamo degli Schiantos. Fausto, insomma, hanno offerto una visione ironica dell'italiano medio, non solo meridionale, in realtà all'inizio degli anni 90. Sì, sì, Steven, in realtà infatti Frick giocava volutamente con gli stereotipi, con i luoghi comuni, è una cosa che ha fatto, diciamo, lungo tutta la sua carriera artistica. Peccato che il brano poi sia stato ripreso da alcune curve calcistiche, mi sembra innanzitutto quella del Verona, credo, che non credo avessero inteso l'ironia, cioè comunque il gioco di Frick secondo me l'hanno un po' distorto loro uso, però... Sono di estrema destra. Esatto, quindi questo dice tutto, e il brano è in Signore dei Dischi, un album del 92, quindi già passato un po' di tempo, tra l'altro un album per l'etichetta discografica di Berlusconi, perché purtroppo Berlusconi torna sempre in questo caso, purtroppo gli Schiantos hanno sempre avuto una vita difficile con le case discografiche, ne hanno più o meno cambiata una dopo ogni album, ogni due album, e diciamo, se volete farvi un'idea della loro travagliata esistenza discografica e musicale, i loro rapporti con il mondo del music business, potete consultare una bella biografia che è stata scritta dagli amici Gianluca Morozzi e Leria Rabbia, che è stata anche ristampata da poco, si chiama Schiantos, una storia come questa non c'era mai stata prima e non ci sarà mai più, quindi il titolo direi che dice tutto. Eh sì, e lasciamo gli Schiantos e riprendiamo il nostro viaggio dall'inizio degli anni Ottanta. Troviamo questa Io vorrei essere la Torre di Pisa, ma io direi anche no, comunque insomma ascoltiamoci i Naif Orchestra. Yeah. musicalmente è proprio un bel brano questo dei Naif Orchestra, peccato che la registrazione non permette di cogliere bene il testo, Fausto. Sì, credo la cosa sia anche un pochino voluta, diciamo che era un po' un gioco di tutti questi gruppi della New Wave italiana che hanno seguito l'esempio di Schiantos, come so, il Window Open o il primo gruppo di Joe Squillo, giocavano su testi appunto volutamente naif, dadaisti, quindi lo stile è quello. Però, parafrasando il buon Max Collini, questo caso è una new wave toscana che non è assolutamente stonata e triste, perché appunto è anzi piuttosto baldanzosa, c'è del funk, ecco, e direi che chiediamoci chi sono questi Naif Orchestra. Sono guidati da due fratelli, sono i fratelli Bigazzi, Giampiero e Giancarlo. Uno potrebbe dire, ah, Giancarlo Bigazzi di Squallor, non è lui. È un omonimo, non sono nemmeno parenti, infatti questo è più giovane, sono i fondatori della famosa etichetta toscana Materiali Sonori, che poi si è specializzata dopo la New Wave, soprattutto su musica etnica e cantautorato, però in questi anni sono soprattutto attivi musicalmente e appunto c'è questo momento di novità e questa voglia di libertà anche sul piano espressivo e sul piano dei testi. Eh sì, noi rimaniamo nel 1980 e troviamo gli Shampoo con questo brano dal titolo E Zizze. Capito immediatamente che questa era una cover ironica di Day Tripper dei Beatles. E Banzo, qui in realtà troviamo anche un altro filone di quello che è la musica demenziale, che è appunto modificare i testi di canzoni, almeno insomma musicalmente gli arrangiamenti, molto conosciute. Sì, esattamente, perché insomma c'è bisogno di dire che Day Tripper dei Beatles, che diventa E Zizze, è un termine che anche non sapendo il napoletano si capisce. E sì, appunto, questo è un... Avremo altri esempi nel corso di queste puntate, perché effettivamente molto spesso, quando l'intenzione è ironica, si prende un materiale conosciuto e lo si manipola. E in questo caso, oltre che testuale, vabbè, spesso canzoni inglesi sono state passate in italiano, ma in questo caso addirittura in napoletano. E non è casuale, perché gli Shampoo nacquero nel 1976 per uno scherzo legato a un Napoli-Liverpool che si doveva tenere in città, non ho capito in che competizione, perché le due squadre partecipavano alla Coppa UEFA ma non si incrociarono, mi sembra. Vabbè, comunque, e sostanzialmente una radio libera presentò gli Shampoo come i Beatles riuniti per volontà del presidente del Napoli. Quindi, ecco, una gag abbastanza dadaista, al tempo stesso di gran rossa, alla quale però sembra che credettero in parecchi. Però questo brano è tratto solo da un disco che uscirà successivamente, in Naples 1980-81, il titolo dice tutto, contiene una dozzina di cover dei Beatles, tutte con questo stile, con questo molto fedeli a livello di sound, primo periodo del quartetto di Liverpool, con testi in napoletano e un riadattamento anche, diciamo, di immaginario, perché io trovo sempre geniale il dettaglio che la mela dei Beatles venisse sostituita sul disco da un pomodoro, simbolo di Napoli per eccellenza. Quindi, se vogliamo, si potrebbe parlare di una geniale operazione di appropriazione culturale. Eh sì, è così. Negli anni '80, insomma, si è fatto conoscere anche a livello mainstream Francesco Salvi con canzoni, non solo come attore. Ce ne andiamo a sentire una e poi parliamo un po' anche di lui. La canzone Allegra. Questa è la segreteria telefonica della facciata A. Siamo momentaneamente dall'altra parte del disco. Potete lasciare un messaggio? Grazie. Trucchi, trucchi, trucchi, trucchi, trucchi, trucchi biondi. Su occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi tondi. Per ricavare fra me e te almeno un po' di maionese. Per avere qualcosa da offrire agli amici quando vengono a trovarci. Quando vengono a sedersi e mi mangiano fuori tutto, tutto, anche il fido gatto per il cane. Questa qua è una canzone allegra. Ciao papà! Gra le, gra le, gra le, gra le, gra le, gra le. Questa qua è una canzone allegra, allegra, mi bemolle, allegra. Mi avevi detto che ritornerai. Sarebbe bello che ritornerai. Vai, vai Gino! Ne parlavo da solo. Pensa, ne parlavo da solo e sono riuscito a avere torto lo stesso. Guarda un po'. Che te devo dire? Mi trovo bene, che te devo dire? Questo è il mio numero di casa, questo è il numero dell'ufficio. Tu però chiamami sempre qua, è il box, io dormo sempre lì. Trucchi, trucchi, trucchi, trucchi, trucchi, trucchi, trucchi, trucchi tondi. Su occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi, occhi biondi. Per ricavare fra me e te almeno i soldi per il ketchup, ciap, ciap, ciap, ciap. Per far sapere in giro che anche noi abbiamo fatto un leasing. Per pagare tutto ciò che ci compriamo. Per fare finta che ci amiamo. Ma in fondo è vero che ci amiamo. Io amo te, tu ami te. Sta qua è una canzone allegra. Ciao papà! Grale, grale, grale, grale, grale, ale! Questa qua è una canzone allegra. Mi bemolle allegra. Sarebbe bello che ritornerai. Io sono alto, bello, biondo, simpatico, pieno di brio. E allora com'è possibile che c'è sempre bisogno di te? Ho già fatto la plastica, adesso tenterò con la ghisa. Questa qua è una canzone allegra. Sono la porta, pensavo che eri tu, invece eri mio papà. Ciao papà. Il paltò? Beh, l'ha preso lei il paltò. Adesso quando torno indietro mi riporta tutti i sogni miei e il tuo paltò. E io te lo do. Questo che ascoltate in sottofondo è il motivo della canzone. Il motivo del disco invece è: vogliamo vendere dischi. Ragazzi, non comprate solo i dischi di quelli famosi. Ciao, adesso andiamo, Gino, è tardi, sta finendo il nastro. Gino, stringi il tempo, sta finendo il nastro della canzone allegra. È una canzone allegra. Questa qua è una canzone allegra. Beh, molti ricorderanno Francesco Salvi con Esatto, che partecipò, se non erro, Fausto, anche a Sanremo, O c'è da spostare una macchina, ecco, ma qui noi vi abbiamo proposto un altro brano che invece è la canzone allegra. Sì, Steven, per la serie non mettiamo i soliti brani, in questo caso abbiamo scelto il primissimo singolo, questo è il primo singolo dell'86, il primo 45 giri di Salvi, che già aveva provato a scrivere un po' di canzoni, però non aveva ancora avuto un grandissimo riscontro. Fra l'altro questo brano poi lo riproporrà col titolo di Maionese, d'altronde la maionese è citata nel testo insieme al leasing, quindi diciamo, e ad altri capisaldi della cultura anni Ottanta, e questo ci permette anche di ricordare che non solo lui ma anche altri comici si cimentarono con la musica negli anni Ottanta, primo fra tutti Abbatantuono, ricordiamo naturalmente, sì, che incise diversi singoli di successo, oppure Giorgio Faletti, prima di convertirsi a una canzone più ricercata, più d'autore, collaborando appunto anche con grandi artisti come Branduardi, fece anche lui diversi album appunto di stile demenziale, o poi ovviamente ognuno sui generis con le proprie particolarità. Salvi, diciamo che ha questa vena anche metamusicale, quindi della serie la facciata A, la facciata B, naturalmente, che dialogano, oppure i pezzi che ha portato a Sanremo, che sono tutti uno più particolare dell'altro. Eh sì, rimaniamo sempre in quel periodo, diciamo la seconda metà degli anni Ottanta, troviamo Brigantoni con Mi stuppai na Fanta, 1987. Che bella sta pizzeria! Vedi che stasera ti faccio fare una pizza speciale, mi raccomando, non farò solo Totò, mangiatela tutta e non mi farò fare male con bassa. Attenzione, la pizzeria Sal Malik è raputa. Avvertiamo i signori clienti che abbiamo i funghi freschi dell'Africa. Arrivici lei, i funghi noi, uspezi da papà, da domani a voi. Volevi una pizza, oh, you're un pezzo lunghissimo questo dei Brigantoni, Mistu Paina Fanta, che ovviamente Banzo qui troviamo di nuovo un'altra cover famosissima, che è The Final Countdown degli Europe. Beh sì, insomma non c'è tanto bisogno la canzone, di ricordare, la canzone è talmente conosciuta. Brigantoni, sì, non so esattamente come si dica, magari dalla Sicilia ci potrebbero correggere, è purtroppo scomparso nel luglio del 2022, più o meno all'età di 74 anni. Un fatto curioso, il suo nome vero era Antonino Caponnetto, perché come il famoso magistrato, però sembra che non ci fosse nessun altro collegamento. E mi sembra di capire, perché qui parlo ovviamente da outsider, che si tratti di una figura leggendaria in Sicilia, soprattutto nella zona di Catania. Aveva cominciato verso la metà degli anni 70 con brani sempre in dialetto, in siciliano, di ispirazione tarantella siciliana, appunto primo album Azita Pilusa, cioè la fidanzata pelosa, nel 75, che fu anche proposta incidentalmente in una puntata di Mai Dire TV, per le curiosità. Poi successivamente prese più una direzione di parodie, e questo ne è un esempio molto chiaro, e mi piacerebbe, perché ho dovuto fare una ricerca, descrivere brevemente di cosa parla il testo, visto che costava abbastanza capirlo. Sostanzialmente parla di una serata in pizzeria nella quale l'accompagnatrice di Brigantoni è molto schizzinosa e toglie gli ingredienti dalla pizza uno a uno, come si vede anche nell'artigianalissimo video della canzone. E io trovo che questa cosa sia meravigliosa, non so come gli sia venuto in mente dalla musica di The Final Countdown scrivere una canzone su questo tema, ecco. Andiamo avanti, ormai siamo davvero alla fine degli anni Ottanta. Tony Tammaro, Il Parco dell'Amore. Parcheggiamo là, è il posto giusto per chi voglia, ma stamora tanto non si senta fora. Siamo io e te in questa 127 play, tutta tappezzata di giornali. Non sarà una stanza, ma è buono puro barca rimembranza. Stasera si è creata l'atmosfera giusta per ora. Chi stu papaccio che ti piace tanto pure a te. Su e giù nella 127 blu, Madonna sì, terribile, mi scassata tutta ribaltabile, che calore, mi distrutto gli ammortizzatori, fammi stare quieto per pietà, fatti un po' più in là, tengo frena ma non mi si parlami. Dimmi che mi ami, ma tu insisti sempre più, e io non ce la faccio più. Stai facendo tutte cose tu. Su e giù, nella 127 blu, Madonna che calore, mi scassate gli ammortizzatori. Ma che bello, se hanno avuto pure uno spurtiel, voglio tornare a casa tu mamma. Ma che donna sei, ecco che sto stamma a 36, non ce la faccio più, al parco dell'amore non te porto più. La la la la, la la la la la, la la la la la la la la la la. una canzone d'amore a modo suo, per così dire, questa Il Parco dell'Amore di Tony Tammaro. Beh, a modo suo, no, letteralmente, Steven. penso che non ci sia bisogno, insomma, se la capisco io, che sono non molto avvezza alla lingua napoletana, si sta descrivendo una escursione in camporella, diciamo, questa cosa tipica del fare l'amore in auto. Tony Tammaro, diciamo che è un personaggio straordinario, forse io non sono la persona più qualificata per parlarne, anche per origini geografiche, perché la barriera linguistica un po' importa. È sostanzialmente un mito in zona Napoli, ha anche suonato dal vivo a Barcellona, quindi immaginate, neanche facendo riferimento solo al bacino degli italiani, ma con quello più ristretto di napoletani e campani. Ha sempre avuto il suo nome vero, Vincenzo Sarnelli, ma come lascia presagire anche lo pseudonimo, ha sempre avuto questa poetica del tamarro che viene descritta con molta autoironia, ma non anche in modo crudele, però c'è sempre questa attenzione anche alle classi popolari. E in effetti, cosa ci potrebbe essere di più popolare di andare a fare l'amore in macchina fuori mano? Tony Tammaro, comunque, oltre ad avere una carriera lunghissima, volevo segnalarlo anche come autore per altri interpreti, perché per esempio vinse come autore il Festival di San Scemo, ci arriveremo, nel 1996 col brano La Latitanza, poi interpretato da Santo e le Madonne. Ne riparleremo. Rimaniamo nell'89, andiamo in Liguria, troviamo Francesco Baccini, cantautore molto conosciuto, che incise anche questa canzone intitolata Viva gli Scout. L'altra sera alla stazione, era circa l'uno giù di lì, e aspettavo il treno da Voghera, il treno che ti riportava qui. Gilda, non ritardare, io non ne posso più, sono prigioniero qui al binario di un esercito col fazzoletto blu. Viva gli scout, che marciano tutti in fila, fila, viva gli scout, che fischia con le dita, dita, e la notte è complice della mia rivincita, e tu arriverai e non mi troverai. Viva gli scout, che pestano l'ortica, tica, viva gli scout, che salva la formica, mica, e la notte è complice della mia rivincita, e tu arriverai e non mi troverai. È arrivato il treno da Voghera, è arrivato e sopra c'eri tu, sei scesa con la tua valigia nera, convinta di trovarmi fermo giù. Gilda, non mi cercare, io non ti voglio più, e mi son confuso nella notte all'esercito di fazzoletti blu. Viva gli scout, che marciano tutti in fila, fila, viva gli scout, che fischia con le dita, dita, e la notte è complice della mia rivincita, e tu arriverai e non mi troverai. Viva gli scout, che pestano l'ortica, tica, viva gli scout, che salva la formica, mica, e la notte è complice della mia rivincita, e tu arriverai e non mi troverai. E questo brano di Francesco Baccini, Banzo, in realtà ci porta anche a parlare, se vogliamo, per quanto brevemente, perché il tempo in radio è sempre tiranno, visto che poi abbiamo un programma ricchissimo di canzoni, abbiamo dovuto fare anche una selezione escludendo tanti artisti e tanti brani, però insomma ci porta a parlare anche della vena ironica del cantautorato più serio, se così vogliamo dire, ma anche di quello più commerciale. E oltre a Baccini penso a molti brani di Edoardo Bennato, soprattutto degli anni 70, o anche di David Riondino, tra i molti. Sì, esatto, come dicevi tu, è stato un problema, abbiamo dovuto applicare delle scelte draconiane. Fausto mi parlava al telefono di Battle Royale per l'esclusione dei pezzi. E sì, Baccini, ho scelto questo pezzo che a me piace tantissimo come esempio un po' di un approccio cantautoriale ironico che però si potrebbe avvicinare alla musica demenziale, perché ieri abbiamo avuto, nella precedente puntata, scusa, abbiamo avuto molti esempi di cantautorato parademenziale, qui abbiamo ripreso il discorso però già in tempi più recenti, perché siamo alla fine degli anni Ottanta. Questo pezzo di Baccini è tratto dal suo primo album Cartoons dell'89 e a me fa gridare fortissimo Paolo Conte, ecco. Diciamo che il riferimento stilistico è quello, anche se poi è reinterpretato con moltissima personalità e con una vena ironica che ovviamente c'è sempre stata anche nell'esempio di riferimento, però ancora più estremizzata, se vogliamo. E Baccini ha inciso anche altri brani con una vocazione fortemente ironica, per esempio ricordo all'inizio degli anni 90 Le donne di Modena. Eh sì, ma anche Andreotti, più andando più sul politico, se così vogliamo, invogliamo i nomi. E entriamo negli anni 90, parlavamo all'inizio puntata di tre capisaldi, di tre mostri sacri della musica demenziale in Italia. Abbiamo cominciato proprio con due di questi tre capisaldi, ossia gli Squallor e gli Schiantos. Ora troviamo il terzo. Allora ragazzi, ricordo che per la castagnata in Valfilzetta le iscrizioni si portano a Don Egidio giù in parrocchia. Ricordo i soliti furbini che niente messa, niente castagnata, e vorrei essere stato chiaro. Vamos. Beh, un brano notissimo questo, non c'è bisogno nemmeno di dire chi sono, sono gli Elio e le Storie Tese, lo diciamo comunque. Fausto, ovviamente questo è il terzo pilastro, forse più importante non solo di questa puntata, ma di tutti gli artisti che stiamo incrociando in queste tre puntate speciali. Sì, sicuramente gli Eli sono quelli che hanno avuto il riscontro commerciale più forte, perché rispetto anche agli Squallor e agli Schiantos, loro davvero hanno venduto centinaia di migliaia di copie in quel periodo 89, 90, 91, 92, erano comunque nei primi posti delle classifiche. Era cambiata naturalmente la sensibilità, quindi ci stava che un tipo di musica demenziale suonata in un certo modo arrivasse anche nelle classifiche e nelle radio, e questo è un pezzo che ha spopolato in radio, perché nel 90 loro mettono insieme in un maxi medley Resta con me di Modugno, Resta con noi signore la sera, Esci dalla tua terra, You make me feel e Born to be alive di Patrick Hernandez, quindi facendone una mescolanza veramente pazzesca, fatto con citazione finale su Dio è morto, quindi veramente sono, ed è una caratteristica che avevano loro all'inizio nei loro primissimi brani, quella di appunto parodiare, mescolare i brani, quindi fare parodie creative, naturalmente non soltanto quindi cambiando il testo, ma anche lavorando sugli arrangiamenti, e continueranno a farlo in tutta la loro carriera, perché ci ricordiamo tutti il mitico Dopo Festival del 2008, che è probabilmente la migliore edizione di quel programma, e tante altre partecipazioni televisive nelle quali stravolgevano in modo creativo, anche ispirandosi all'attualità. È difficile scegliere solo quattro brani, che sono quelli che vi proporremo di Elio e le Storie Tese, però insomma noi ci abbiamo provato e adesso andiamo avanti di un paio d'anni al 1992, quando troviamo questa Il Vitello dai piedi di Balsa. Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre. Quel fottio di animaletti inventati da me, c'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tonnati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. Ma un giorno il vitello dei piedi di balsa si recò dal vitello coi piedi di cobalto, gli disse: c'è il vitello dai piedi tonnati che parla molto male di te, sostiene che i tuoi piedi non sono di vero cobalto, ma sono in effetti quattro piedi di pane ricoperti da un sottile strato di cobalto. Mio caro vitello dai piedi di balsa, la tua storia è falsa. L'amico vitello dai piedi di spugna mi ha svelato la verità e mi ha nascosto una microspia nei tuoi piedi di balsa e nei piedi tonnati, così ha scoperto che tu, solo tu, sempre tu, anche tu, nient'altro che tu, proprio tu. Sei il vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Accusavi il vitello dai piedi tonnati e per questo i tuoi piedi saranno asportati. Ma la legge prevede una pena aggiuntiva per questo reato, l'ascolto forzato di Pulun Vagi Sudure Ule di Gai Lassene Andume Hedai Kadira. Nel boschetto della mia fantasia ora c'è un vitello senza più i piedi che invoca pietà quando ecco che un piccolo amico si avvicina. Mi presento, son l'orsetto Ricchione, e come avrai intuito adesso ti inculo. E vabbè, insomma, è un'altra canzone famosissima di Elio e le storie letese. Fausto, qui ci sentiva, insomma, l'hanno riconosciuta credo tutti, la voce di un grande cantautore italiano. Sì, si tratta di Enrico Ruggeri, grande amico degli Elio e le storie letese. Siamo nel loro secondo album e quindi dopo il grande successo anche inaspettato del primo possono permettersi tanti featuring di spessore, c'è anche Abatantuono e tanti altri artisti nel... i Chieftains, se non ricordo male, e tantissimi altri artisti nell'album che si chiama Italian Room Casus Sicti. Altra caratteristica dei primi album è quella di avere dei titoli quasi incomprensibili, ecco. E qui abbiamo anche, l'abbiamo messa per non gustare la sorpresa, esiste la versione reprise del brano che racconta il seguito della storia, quindi dopo l'intervento dell'Orsetto Ricchione, che cosa è successo? Quindi lasciamo ai nostri ascoltatori il piacere di scoprirlo. Eh sì, noi andiamo al 1993 e troviamo questa You, sempre ovviamente di Elio e le storie tese. You. Are the best friend of my life, Rocco. He's had enough of all the girls we loved before, all the girls we fucked before, and I could never let you go. No, no. Step by step in the darkness of the sea, with many monsters inside. Ooh. Sei la luce del mio cuore, amor. Tu, solo tu, sempre tu. Sai darmi quella marcia in più, marcia in più, marcia in più, che mi riduce ad un pilota, sì sì, a un conduttore di vetture dell'amore, dell'amore. Tu sei il pianista per me, e tu il cantante ideale per la mia musica. Sei tu che sai trovare le note che si addicono al mio pensare. D'amor, tu contieni davvero le melodie purissime. Elio, sì sì, mio signore, tu vuoi dirmi qualche cosa? Il fondatore, questo è vero, del gruppo omonimo. Ciò che tu mi dici è vero, ma non mi scorderò di quel ragazzo che cantò su un palcoscenico di Propoli, quel motivetto che fa dire a tutti au. E così si conclude questa versione di You, che era Banzo Live, tra l'altro 1993. Sì, un disco live in studio, infatti benché il disco sia uscito dopo Italian Room Casus Sicti, contiene brani precedenti. Forse anche per il successo del disco si pensò di radunare una serie di brani degli Esordi, degli Elio e le Storie Tese, in questo live in studio, nel quale c'è anche una cover di Cadavere Spaziale che abbiamo sentito nella prima parte dello speciale di Rhythm Samaritano. Ed è una canzone, viene spiegato nell'intro, perché tutti i brani hanno delle intro lunghissime, che parla di un amore fra Elio e Rocco Tanica, perché avevano creduto per errore di essere rispettivamente gay, quindi si dedicano a questa canzone d'amore. Ovviamente lo spunto musicale è tratto dall'aria sulla quarta corda di Bach, anche nota come la sigla di Quark. Alla fine c'è un arrangiamento però più in chiave jazz, che denota ancora una volta di più l'estrosità come musicisti degli Elio. E volevo chiudere questo intervento spiegando da dove viene il titolo del disco Esco dal mio corpo e ho molta paura. sembra sia tratto dalla descrizione di un sogno in una rivista di astrologia, probabilmente Astrella o Astra. Eh sì, questi sono comunque gli anni mitici degli Elio e le storie tese. Ricordo anche il Pippero, ricordo se in occasione dei mondiali degli Stati Uniti di calcio del 1994 i brani che fecero anche poi insomma in collaborazione con programmi come no, quelli della Jalapas Band. Sì, mai dire gol. Esattamente, esattamente. Vai a Mary, grazie a Mary. E poi, se non ricordo male, Banzo, correggimi, era il 1996 quando parteciparono a Sanremo. Esatto, la lista dei capolavori di quegli anni è infinita e infatti può sorprendere la scelta di questo pezzo. Ne abbiamo voluto mettere uno che molto probabilmente non conoscevano in molti. Ecco. Eh sì, e andiamo anche 20 anni dopo, nel 2012, con questa Dannati Forever. Ieri andando a fare due passi in un percorso di fede, mi chiedevo, posso smaltire i peccati con i giochi, ma sono troppi peccati mortali che ho collezionato. Per esempio, ho fatto adulterio, mentito, rubato, continuamente pisello, toccato. Fin dall'età di 6 anni ero già condannato. Vado all'inferno, nel fuoco eterno. Co-co-co-co, gli onanisti, i comunisti e Gengis Khan. Chi l'avrebbe detto che sarei finito dannato? Ma come ti muovi, ti imbatti in un peccato? Credi in un gruppetto di e poi li nomini in vano. Per Giove, per Diana, per Baco, per Vinci, pimpi e ti dimentichi di santificare. Non onori i papi, non onori i namami. Accidentalmente assassini la gente. Dopo una cena elegante all'improvviso fornichi. Tu, insieme all'inferno. All'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno. Reggio, Calabria, Salerno, a Ferragosto. Crema protezione totale contro il fuoco infernale. Non c'è, non c'è. Tutti nudisti, ustionati, dannati in foreva. And ever. Oh yeah. Tu, pure tu all'inferno. Pure tu, pure tu, pure tu, pure tu, pure tu, pure tu. Pa, pazzesco. All'inferno. Come è successo? Pazzesco. Vivere una vita d'inferno. Vivere e morire. Per poi finire. All'inferno, all'inferno, all'inferno. Canzone forse meno conosciuta, Banzo, però diciamo che rappresenta molto bene lo stile di Elio e le storie tese. A mio modesto e insindacabile parere è l'ultimo loro capolavoro, perché c'è quell'ironia straordinaria, quell'inventiva verbale, però fu una canzone che venne praticamente snobbata in diretta, perché fu presentata insieme alla canzone mononota al Festival di Sanremo del 2013. Gli artisti si presentavano con 2 canzoni in gara, poi una veniva scartata e le altre proseguivano, e quindi possiamo dire che Dannati Forever fu sacrificata sull'altare della canzone mononota, che aveva una gag, se vuoi, più appariscente, però anche più meccanica. E io invece mi innamorai subito di questa canzone, che mi restituì in un certo senso gli Elio e le Storie Tese come li avevo amati fin dall'inizio degli anni 90. E c'era, appunto, come dicevo, quell'inventiva che si è un po' persa, perché secondo me, mio parere personale, si sono un po' infognati sui sentieri dell'ironia metamusicale, sul fatto di suonare molte note, questi suonano poche note, la canzone mononota e così via, ecco. Tra l'altro si parlava anche degli esodati, che ci riporta proprio agli anni del governo Monti, quindi insomma anche questa capacità di cogliere dal panorama politico, dal dibattito, termini, no, che magari hanno durante un periodo una certa visibilità e poi insomma adesso se ne parla molto meno e scompaiono. E ritorniamo però agli anni 90, dopo questo break con gli Elio che ci ha portato un po' avanti negli anni, al 1991, quando troviamo questa Arbre Magique di Marco Carena. Camminando in mezzo al verde, distratta man vesti una merda, dopodiché tu monti sopra la voiture. Stai andando all'appuntamento quando improvvisamente ti prende al naso un odore che fa paura. Vedi sopra il tappetin tutto un grande spalmamento, una cosa tu puoi fare solamente, tu puoi fare solamente. Arbre magique, arbre magique, sei delle tempe un gran nemico. Se tu te metti, arbre magique, le risultati garantite. Arbre magique, arbre magique, per chi lo sa com'è la vita. Ma chi t'importa della guerra, ma chi t'importa delle canker, ma chi t'importa se l'amorosa ti ha tradito. Ma chi te importa l'AIDS o se si è intasato il CES delle governe o della politica? Ma chi te importa se le coglion non vanno mai in estinzione e nell'aria senti un grand odor de fogne, un grand odor de fogne? Arbre magique, arbre magique, in questo mondo che ti fa schifo, se tu te sniffi, arbre magico, le paradiso fra le tue dita, arbre magico, arbre magico. Senza il parfum, ma cos'è la vita? Arbre magique, arbre magique, arbre magique, arbre magique. Beh, questo finale è un po' così inaspettato, però Fausto, qui Marco Carena insomma ironizza con la canzone francese. Sì, assolutamente, d'altronde è un po' il suo stile, quello di parodiare il cantautorato. In un altro pezzo famoso, De Andrata immagina un possibile seguito della canzone di Marinella, quindi diciamo che era comunque una vena che aveva fino dai suoi primi dischi. Siamo qui agli inizi degli anni 90, Carena è di Torino e a Torino era nato il mitico, ormai rimpianto anche, Festival di San Scemo, che Carena vince proprio nel 1990, e quindi per diversi anni abbiamo un'esplosione di gruppi demenziali in tutte le parti d'Italia, e quindi c'è anche un punto di riferimento, perché questo festival, per quanto non vada in prima serata su Rai 1, comunque ha una grossa visibilità. Carena, fra l'altro, produrrà molti album. Questa Arbre Magique è contenuta nel Carena 2 Ritorno, che è un concept album a suo modo, dichiaratamente un concept album sul tema della sfiga, e quindi declinata in varie situazioni. E rimaniamo sempre in quegli anni e troviamo un altro gruppo che ebbe molto successo all'epoca, i Pittura Fresca, sommato per Eamona. Insomma, chi parla veneto, viene dal Triveneto come me, capisce benissimo a cosa fanno riferimento. Respirai, sommato pare amona, più mato le gioi, non spendo, stengo, non in tempo, in pira, respirai.

Se ti lascio in faccia i segni del saldatore, so che capirai, io non ti serverò rancore. Beh, il sottotitolo lo si capisce subito dopo aver ascoltato il brano. Senza fiato, Rapput, lui è Claudio Bisio, Banzo accompagnato da Rocco Tanica. Esatto, perché come sottolineava Fausto, in quel periodo gli Elio e le Storie Tese, personaggi del gruppo, partecipavano a vari progetti di area più o meno afferente a quella della musica demenziale. Allora, questa è una canzone famosissima, Steven, nel 91 ebbe un successo incredibile, rimase in testa alla classifica dei singoli per molto tempo, e adesso ancora su YouTube trovi sfilze di commenti di uomini nostalgici che dicono: quelli erano bei tempi perché si poteva cantare qualunque cosa, mentre adesso c'è il politicamente corretto. Io questa canzone l'ho scelta per questo, io la adoravo da bambino, ovviamente non ne capivo tutti i sottointesi, però ecco, diciamo che risentita 30 anni dopo è un po' problematica, e perché la facilità con la quale si ironizza sui segni del saldatore lasciati in volto, insomma, ci lascia intendere che all'epoca il tema della violenza domestica, la violenza sulle donne, non aveva ancora assunto nel dibattito pubblico il rilievo che ha assunto, per fortuna, adesso. Quindi non è necessariamente, cioè, nessuno ha voglia di censurare alcunché, e in effetti abbiamo trasmesso la canzone, però anche far notare che nel giro di 30 anni, per fortuna, o ad ogni modo è cambiata una sensibilità, non mi sembra qualcosa di così grave, perché sappiamo tutti che anche in quel periodo la violenza domestica era un problema, però sicuramente era più facile ironizzarci sopra perché non era un tema così discusso a livello sociale, mentre adesso, ripeto, per fortuna lo è. Eh sì, è proprio così. Siamo alla fine di questa puntata, ci rimane ancora il tempo per un paio di brani. Andiamo con questi Power Illusi, Il bambino povero. Oh, oh. Sulle spalle, senza lo yogurt, come farà? La sua mamma è morta. Oh, oh, oh. La sua mamma è morta. Il fratello è spastico, la sorella si filifica, si buca di già, e le ruba l'autoradio. Oh, oh, oh. Alle vecchiette, ma lo fa per vivere, è così che fa. Ed è un bambino povero, il sistema l'ha bollato, e da grande andrà in galera, come il suo papà. E questi sono i Power Illusi con questa Bambino Povero. Siamo al 1992, sempre all'inizio degli anni 90, Banzo. Questi vinsero tra l'altro il famoso Festival di San Scemo che ricordavamo poc'anzi. Beh sì, sicuramente parteciparono alla prima edizione del 1990. Poi c'è il mistero di come si pronunci, perché io per esempio li chiamo Power Illusi, però effettivamente il gioco di parole dà la possibilità, è scritto Power come in inglese, dà la possibilità di pronunciarlo in entrambi i modi. Festival di San Scemo, che inizialmente volevano lanciare loro stessi, ma non ci riuscirono, in località vicina a Sanremo, nel paesino di San Romolo, e poi alla fine qualcun altro arrivò alla stessa idea, perché si vede che era nell'aria, e nel 1990 a Torino si tenne la prima edizione della manifestazione. Loro erano torinesi, questa cosa serve anche a sottolineare come a un certo punto Torino diviene un centro, oltre a Milano, della scena demenziale, col Palasport che ospita San Scemo, denominato per le occasioni Pala Cavolfiori, ecco. Sì. Sui poveri illusi, posso dire, formati nel 1987, ancora in attività, quindi eroici, e da circa 6 anni, nel 2017, in formazione c'è anche Paolo Rigotto, che è stato nostro ospite. Abbiamo mandato varie volte la sua musica da solista, è un musicista straordinario e in effetti quando l'ho saputo non mi ha sorpreso, perché la scena e gli ambiti sono quelli, quindi era anche immaginabile che potessero mescolarsi. Sì, salutiamo anche il grande Rigotto. Noi siamo davvero a fine trasmissione, ci salutiamo con un'ultima canzone. Dopo aver trovato attori e comici che si sono anche dilettati con la canzone, in questo caso demenziale, come per esempio Francesco Salvi e soprattutto Claudio Bisio, chiudiamo con un altro grandissimo attore come Gene Gnocchi. Esatto, perché Gene Gnocchi ha sempre avuto una passione per il rock and roll, un grande conoscitore, spesso si è dilettato a suonare lui in prima persona, spesso accompagnato dal fratello Charlie. E questo è un brano, Giura che non è silicone, singolo più famoso del disco Antonella Pasqualotto 9978, che all'inizio degli anni 90, più precisamente nel 92, ebbe un certo riscontro di pubblico, e è un brano che ironizza sulla mania per la chirurgia estetica, insomma gli anni 90, inizio anni 90 è un tema di grande attualità. Sì, noi con questo brano ci salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima puntata, che sarà anche la conclusione di questo monografico dedicato alla musica demenziale in Italia. Vi ricordo il titolo, La famosa invasione dei dementi in Italia, quindi venerdì prossimo, terza puntata, arriveremo davvero al giorno d'oggi. Fausto, grazie davvero di essere stato con noi, ci vediamo, ci ritroviamo venerdì prossimo. Ciao Steven, ciao a tutti, alla prossima puntata. Banzo, un saluto anche a te, grazie di essere stato con noi. Grazie a te Steven, alla prossima. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, dopo la fine del franchismo, alle 19.57, tutti i venerdì diceva: vi abbiamo ingannato, non vi abbiamo dato nessuna informazione sull'uscita di Bergamo dal MEC, come avevamo detto la settimana scorsa. Effettivamente così è, Gene Gnocchi and the Ghetto Boys, Giura che non è silicone. Bye bye! Quello che io tocco di te, ma tu allora mi inganni, tu non hai 20 anni, sei una donna senza età. Giura che son veri tettoni, che non sono pieni di gas. A me piace la ciccia, ma che non sia posticcia, è di prima qualità. 1, 2, 3 for the lifting go, and I'll make you the silicone. 1, 2, 3 when the lifting go, when I make you the silicone. 1, 2, 3 for the lifting go, when I make you the silicone. 1, 2, 3 for the lifting go, when I make you the silicone. Giura che non è silicone, quello che tu tocchi di me non è neanche bambù, ma soltanto cacciù, è di prima qualità. Giulio, che sorpresa mi hai fatto, io che ero pazzo di te. Io vedevo la gonna e pensavo alla donna, ma di prima qualità. Io ti bacio la bocca ma ho paura si stacca, mi ami, mi ami. Io ti lavo i capelli ma son finti anche quelli, mi ami. One, two, three for the lifting.